la noia, la rabbia del cuore, è un giorno che muore, un altro sapore, la furia, la noia, è solo dolore. La furia, la noia, nel bianco e senza parole, è solo